Cierre. En este programa. Underoto. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Eccomi, eccomi. Sono puttale quanto il brutto tempo, guarda. Quanto la neve. Che ridi, che ridi. Oggi quante cose avremo da raccontarci, ma tante, tante, tante. Get ready for some fireworks. Intanto vi dico che parte una nuova puntata di On The Road. C'è Roby D'Antoni con voi per il proseguo della giornata. Quindi le prossime due orette le trascorreremo insieme. And now, your favorite DJ. Poi vi racconto cosa mi è successo, per una cosa stranissima. Intanto partiamo, primo disco di oggi. Flashback, vai! Flashback. Oggi dovevo vestirmi elegante per iniziare l'appuntamento con un disco del genere. Si chiamano Earth, Wind & Fire, questa è semplicemente Fantasy. Space and the world can- Iniziare con un disco del genere, dicevo, oggi avrei dovuto quantomeno indossare la cravatta, perché iniziare con un disco così elegante, e se il buongiorno si vede dal mattino, dico, chi bene inizia è già a metà dell'opera. 17:10 in questo istante, quindi parte una nuova puntata di On The Road con Robin Antoni. Vi do subito le coordinate per raggiungerci, come fare, facilissimo. Allora, intanto, se volete seguirci in streaming, quindi oltre che ascoltarci volete anche vederci, crmpradio.it. Poi lo stesso indirizzo potete usarlo per su Facebook per richiedere la vostra musica, quindi ancora crmpradio. O eventualmente potete inviare i vostri messaggi al 335-5637-251. Oggi finalmente è una bella giornata di sole, sono le ultime parole famose, perché da domani dovrebbe arrivare il freddissimo anche dalle nostre parti. Vedremo un po'. Tutto quello che hanno avuto al nord Italia adesso dovrebbe spostarsi pian pianino verso il centro e il sud Italia. Quindi da domani già temperature in picchiata. Vedremo un po' se effettivamente sarà così. L'importante è che lo faccia dopo mezzogiorno, perché io domani mattina dovrei andare a correre, quindi cortesemente parlate con chi di dovere, e domani quantomeno nelle prime ore del mattino, cortesemente, se è possibile, avere non tanto il sole ma perlomeno niente acqua, che non... Ero solo con gli amici, è un tratto tu, se tu spiegami perché. Da quando ho incontrato te, tutto è diverso. Non volevo più restare a pensare alla mia vita. Non volevo, perché è troppo tempo ormai che ho chiuso la ferita. E adesso guardami. Tu scivoli pian piano, e anche se cerco di scappare invano, mi allontano dalle stelle, e adesso guardami. Ero sicuro. bella sta canzone. Sai che comincia a piacermi non poco. Come, come? Natura umana, questo è il titolo della canzone nuova di Gianluca Grignani. Dico meno male che il brutto tempo, questo tempo duri poco, perché immaginate un inverno del genere, no? Un paio di mesi così, ci saremmo veramente belli che fritti. Caos treni, ci sono un sacco di comuni senza acqua e senza luce, l'odissea sugli intercity bloccati per ore, poi che dire, ci sono stati cancellati voli da e per Linate, Roma, niente lezioni domani e sabato. Un'altra cosa importante, che il Milan è riuscito a farsi anticipare la partita. No, non ci saranno né il posticipo serale, quindi Roma-Inter, o quantomeno sarà l'anticipo, però non di sera, lo faranno nel pomeriggio, Roma-Inter e poi anche Milan-Napoli, che si doveva giocare domenica sera, credo sarà anticipata, il posticipo sarà anticipato a domenica pomeriggio. Bologna sotto 60 cm di neve. Però non è solo, cioè addirittura il ghiaccio all'interno di un convoglio, emergenza, non solo dalle nostre parti, perché l'emergenza gelo è anche in buona parte dell'Europa, più di 100 morti, davvero un bollettino di guerra, sembra, altro che sono città tutte imbiancate, gente che non riesce a riconoscere, scende giù e non riesce a riconoscere qual è la propria vettura, perché realmente non si riesce più a capire quale sia un'auto o l'altra, perché sono veramente tutte imbiancate, tutte sotto un manto spesso di neve. 17:20 sulla radio che si sente e si vede, CRM Happy Radio, vi regalo anche questa bellissima canzone di Robin S. Show Me Baby. Devo fare già i primi saluti, gente che ne approfitta del nostro sito per inviare messaggi. Aldo, un saluto a tutti gli amici di CRM, mio zio Emilio, mo il grande piastrellista, ciao, e la salutiamo. Emilio, un grandissimo amico, approfittiamo per salutare, per leggere i vostri messaggi. Voi continuate ad inviarli, crmpiradio.it, continuate oltre ai messaggi a richiedere la vostra musica, perché nelle prossime due ore cercherò in lungo e largo di accontentarvi, come in questo caso, Giorgia. Di errori ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Ne ho perso certe occasioni, sai, che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, e il prezzo di amare. Che scalata che ha fatto questa ragazza, davvero molto molto brava. Giorgia, nuovo album, questo è il singolo di punta, credo, in questo periodo, a parte poi il duetto con Eros è incluso anche nel nuovo album, nel nuovo lavoro. Parleremo oggi anche di calcio, perché ieri si è giocato, c'è stato l'anticipo infrasettimanale, si è giocato, da qualche parte si è giocato ieri. Risultati, qualcuno si aspettava altro, altri inattesi. Ne parleremo poi con il mio Fido, il mio responsabile del momento sport, Rambo. Dopo parleremo di quello che è successo ieri, quel rocambolesco 4-4 tra l'Inter e il Palermo. Mamma mia, cos'è successo ieri a San Siro, è incredibile. Si giocava a pallavolo, come era? Tennis 4-4. Ai ai ai ai, diamo un po' di ritmo a questo pomeriggio, vai! Ci trasferiamo in un paese caldissimo, in Brasile, va! Felicidade, a magia do carnaval. Felicidade, o meu samba me faz cantar. Magia do carnaval. Feliz. felicidade, o meu samba me faz cantar. Felicidade, a magia do carnaval. Felicidade, o meu samba me faz cantar. Carnavaggio, che bella questa canzone, eh? Si chiama Samba Mulata. 17:33, già ci siamo pappati la prima mezz'oretta insieme. E allora devo parlare un attimino di Sanremo, perché come promesso da Gianni Morandi, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo è arrivato subito il responso sui brani di Chiara Civello e di Gigi D'Alessio, perché probabilmente i brani devono essere segati, come si dice in questo caso. Ebbene, la prima sembra l'avesse già cantato Daniele Magro, ex di X Factor, la seconda è finita in rete ma solo per qualche secondo e poi tolto subito, via libera dall'organizzazione dopo attente verifiche. Dunque i brani Al posto del mondo di Chiara Civello e Respirare di Gigi D'Alessio, che canterà assieme a Loredana Bertè, restano in gara nella sezione artisti della 62esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Lo ha deciso l'organizzazione del festival, comunica in una nota Rai 1, dopo attente verifiche con il parere dell'ufficio legale della Rai. La decisione si deve al fatto che per entrambi il brano persiste la configurazione di canzone nuova ai sensi per gli effetti del regolamento di Sanremo 2012, quindi niente paura per gli amanti fan di Gigi D'Alessio, che quest'anno si presenterà con Loredana Bertè, ma soprattutto per i tanti appassionati, tanti fan di Chiara Civello, non vi preoccupate perché saranno a questa edizione del 2012 di Sanremo. Visto, con tutti i problemi che ci sono al mondo, noi ci occupiamo anche di risolvere i problemi di Sanremo, te capì? Che dobbiamo fare? Pubblicità? Ma sì, dai, facciamo un attimo di pubblicità, ma 30 secondi, no, un minutino e qualcosina in più, poi torneremo ancora in diretta e state con noi, perché questo è On The Road con Roby D'Antoni sino alle 19, soprattutto avete scelto la radio giusta. Flashback. Your love away. Oggi l'ho detto, mi sarei sbizzarrito al massimo per regalarvi certe emozioni fatte di note, fatte di musica. Sinéad O'Connors, Nothing Compares to You, un altro passaggio per il classico, il disco che si va a ripescare indietro nel tempo. I classici sono dischi che hanno fatto un po' la storia della musica in genere, dischi che hanno regalato certe emozioni e noi, pur di regalarveli, andiamo a impolverarci un po' le dita, lo facciamo volentieri. Torniamo in Italia, questo è il nuovo di Luciano Ligabue, si chiama Ora e Allora. Un conto è volere vedere le stelle, un conto è farsi guidare, un conto è saperle là in alto e lasciarle un po'. Un conto è la rabbia che provi a vent'anni, un conto la rabbia a 40, un conto che intanto non sembra cambiare mai niente. sai che ora e allora è ancora così a rubare l'amore che si fa. Di tutti i locali un conto è dover star fuori, un conto è sentire che riesci a lasciarti dormire, un conto è svegliarti e sentirti già stanco, un conto è trovarla di fianco, un conto è sentire fuoco non è ancora spento, tanto ora e allora è ancora così a rubare l'amore che si fa rubare. Sta il suo gioco, un conto è averlo capito, un conto è ripeterti spesso che sei fortunato. Tanto tutta ve la faccio sentire, vale la pena. Ora e allora Ligabue, attenzione perché c'è una scoperta sensazionale al Museo del Prado di Madrid dai magazzini, e infatti è spuntata una copia della Gioconda di Leonardo da Vinci, quasi identico all'originale. Il quadro è stato dipinto quasi contemporaneamente da uno degli allievi prediletti del maestro, probabilmente Andrea Salai o Francesco Melzi. Secondo il Pais, The Hard Newspaper, si tratterebbe di una delle prime copie della famosa opera, probabilmente la prima in assoluto. Gli specialisti del Museo di Madrid hanno impiegato diversi mesi per studiare il quadro, per eseguire un intervento di pulizia che ha permesso di rimuovere la vernice scura che copriva la tavola ad olio. L'opera, che per molto tempo all'interno del Prado è stata considerata come un banale copia del più famoso ritratto femminile conservato al Louvre di Parigi, è stata ora nuovamente classificata e la sua catalogazione, scrive il Pais, assomiglia ad una vera bomba per gli studi dell'arte. Quindi una scoperta credo davvero sensazionale questa qua, perché non si tratta di una copia, si tratta proprio di una, come potremmo dire, non una copia fatta per prenderci soldi, una cosa fatta in contemporanea. L'allievo che dice quasi quasi faccio una cosa, il maestro ha dipinto questo volto di donna e io lo faccio pure, vediamo chi lo fa meglio, lui o Dio. Il ragazzo lavorava in un bar ed aspettava che il padrone se ne andasse per potersi sedere. Un dottorino Questo è Marco che ci ha richiesto questa canzone che vede protagonisti Lucio Dalla e Marco Mengoni. Mi dice: scusa, potresti mettere questa canzone? Non ricordava il titolo, si chiama Mary Lewis, e mi scrive il disco di recente composizione. Visto, Marco, siamo riusciti a beccarlo, e allora adesso un attimo di pausa, poi ancora.

Lady Gaga, si chiama Marry the Night. Così si chiama. Fra non molto avremo anche Rambo, commenteremo quello che è successo ieri, nella giornata di ieri. Una giornata davvero turbata dalle condizioni meteo, dalla neve soprattutto. Però credo che la neve sia stata solo a Milano, perché in Sardegna non ce n'era, Cagliari che ha vinto contro la Roma non ce n'era, Roma, la Lazio che ha vinto col Milan non ce n'era. Quindi solo a Milano alla fine c'era. Vedremo, vedremo. Là dove c'era sono state annullate le partite. Eccola Lady Gaga! I'm gonna lace up my boots, throw on some leather and cruise down the street that I love, and my fishnet gloves on the center. Then I'll go down to the bar, but I won't cry. Siamo pronti, ho il collegamento pronto con lo specialista numero uno di questi periodi, il mio fido collaboratore quando si tratta di parlare di calcio. Aspetta che mettiamo la sigla però. Rambo! Buonasera a tutti! Che entusiasmo! Come va? Tutto bene, Rambo? Tutto bene, ho visto per la partita, io ho una pallavolo, Inter e Palermo. Vero, vero, 4-4, mamma mia. E all'ultimo, Roberto, con la punizione del Palermo, per poco. Io la tremavo, ho detto, vuoi vedere che Miccoli ci fa un regalo, peccato, però, d'altronde già... Va bene così. Va bene, già Miccoli il regalo ce l'ha fatto con quei tre gol, dico, può anche andare bene così. 4-4 a Milano. Poi non ho dovuto, ti ho detto un pareggio pure bene. Sì. Ma noi eravamo convintissimi di questo, che Palermo poteva andare a prendere un punto a Milano, e lo ha fatto con un. Poi grazie alla Lazio si ha fatto un pensiero a noi pure, no? Sì, cioè tu pensa che la Juve, io ieri sera poi su Facebook sono messo un po' a massacrare gli amici, amici nemici, interisti e milanisti. Ho detto che la Juve senza giocare è sempre prima in classifica. Ha guardato gli altri che si facevano male, capito? Tipo il Milan. Poi scusa, non eravamo noi che prendevamo i rigori facili, i gol in fuorigioco? Metti abbastanza radio, se no vengo la lettera, distruggo, per favore. Bagammo. No, in sera del fuorigioco c'era. Come c'era? Certo che c'era, c'era il fuorigioco e il rigore è stato anche. Il rigore, chi lo si sta andando con un papà e radio cartone. È stato molto molto buono l'arbitro a dare quel cazzo poi c'è il regolo per noi, infatti poi dicono che era la Juve che era comprava gli arbitri, che avevamo oggi eccetera eccetera. Cioè, quest'anno i favori che hanno avuto Milan e Inter non sono cosa normale, si possono dare la mano tutti e due. Vero, stanno andando pari passo confronto alla Juve da un paio d'anni. Vuoi vedere adesso che si stanno invertendo un po' i ruoli, Rambo? Sì, sì. E allora, parliamo importante quando chiappiamo a tutti, vi stiamo a Regina. Come? Li pestiamo come l'uva. Li pestiamo come l'uva. Come abbiamo detto l'altra volta, con la Roma massacreremo. E con la Roma, Roberto, invidi a 4 a 4. Rambo, senti una cosa, mi dicono dalla redazione, dovresti farci, ma io forse ce l'ho una foto di Rambo, dovresti farci avere una foto anche via email, così quando noi facciamo gli interventi noi facciamo vedere, perché molta gente ci chiede, ma com'è sto Rambo, capito? Quindi tu dovresti farci avere una foto tua. Sì, se come? Normale o... Ma come la vuoi? Come vuoi farla, Rambo? Come la divisa? Indivisa, fai tu. Basta che sia sorridente. Importante vincere, è importante. Importante è vincere. E allora, dicevamo, bene il Cagliari ieri che ha vinto contro belle burpette. Però è stata un po' sfortunata, la Roma ha giocato bene, meritava il pareggio, meritava, però il calcio è questo, se tu non butti dentro la palla poi va a finire che gli altri ti puniscono. Bene la Lazio ieri, anche se effettivamente si sono divisi un po' il... Io pure ho sbagliato due squadre, non mi interessa niente, Roberto. Ah sì? Ho sbagliato Lazio-Milan, ho rimesso gol. Ah, e poi ho sbagliato Napoli-Cesena, che il portiere avevi Cesena... Avevi uno, me l'hai detto ieri sera, ci siamo sentiti durante le partite. E mi hai detto... Vabbè, potevo prendere 100 euro su 11.000 euro, 100 euro perché hai sballato tutto. Ma già su 100 euro, Rambo, guarda, già abbiamo una tua foto... chi sta guardando la live su streaming crmpradio.it, sì? Ecco, c'è una tua foto mentre stai scalando, stai facendo l'intervento. Sto scavando, che cosa? Mentre un osso. Vabbè, basta, Roberto, si collega su, vado su Facebook, basta, cercare Gentile Francesco, mi trovano sicuro. E infatti ora metteremo la tua foto, quella con i tuoi nipotini metteremo. Sì, quelle sono le mie belle bamboline. E allora, poi chi ha giocato poi ieri? Poi ha giocato Udinese Lecce 2-1. Hai visto, già Pazienza è arrivato, ha fatto il gol. Pazienza che hanno preso dalla Juve, ha già fatto gol. È bene così. Poi stasera si gioca. C'è... Poi chi ha giocato, Roberti? Basta più, non credo che non... aspetta che mi sfugno, ma credo non abbia giocato più nessuno di Serie A, perché le altre tre partite sono state stasera c'è Novara-Chievo e stasera c'è Novara-Chievo. Stasera Chievo ci parla a bocca. Addirittura. Allora Novara perde sempre. Addirittura vedo Novara con una bella squadra, corrono sempre con la palla, senza palla, E allora Rambo, allora, pronostico, no, ora hai saputo che Galliani si è talmente tanto lamentato per il fatto che non si poteva giocare la sera, che lui avrebbe fatto di tutto, e sono state anticipate le partite. Non ci saranno, almeno per ora, non ci saranno posticipi durante la sera, si giocheranno tutti in pomeriggio le partite, capito? Sì. Sia Inter-Roma, credo, e Milan-Napoli. O Napoli-Milan, ma Napoli-Milan. Milan-Napoli, Roberto. Milan-Napoli. E quindi... Milan-Napoli finisce 2. Milan-Napoli finisce... Il Milan ne prende un'altra botta. No, non credo. Non ci credi? No, non credo. Scherzo qua il Napoli, se va a scherzetto. Certo, prima o poi il Napoli adesso una partita la dovrebbe vincere. Va a vincere a Milano. Juventus e Siena 3-0. Vedremo poi. Vedremo. 2-0 va bene? 2-0 già mi basta, guarda, mi basta anche l'1-0. 1-0 deve stare attento fino al 90. Certo, no, mi basta anche segnare all'88. Va bene così, lo dici tu. Noi l'importante è vincere e portare a casa i 3 punti. Sì, l'importante è nero azzurro sbarazzavo. Va bene, Rambo! Allora... Vabbè, so, quando prima finisce il programma tu sai che cosa voglio. Certo. Vedi a mettere la canzone che non trovo la spesso. Vabbè. Forza Juve, Sacco Bianconero, saluto a tutti. Ci vediamo domani, Rambo. Ciao, saluto a tutti. This is the life. Che bella questa canzone allegra, pimpante. Mi sento nel far west. Body country. Ancora benvenuti, ben ritrovati sui 101.4 CRM Piredio, eventualmente come al solito in streaming crmpiredio.it. Poi usufruite anche del nostro profilo Facebook per inviare i vostri messaggi e richiedere la vostra musica, quindi CRM Happy Radio. Continuiamo a regalarvi ancora la bella musica, in questo caso Bruno Mars. Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful. I tell her every day. Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita. buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachitos que pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena. Y a todo el mundo sabe que lo cante de La Habana. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata, tacata, bro. Mira, mira, mira. 18:39 sulla radio che si sente e si vede, CRM Radio con Rami D'Antonio anche per oggi insieme sino alle 19, se state seguendo la puntata in diretta. Sino alle, alle 2 della notte, se state seguendo la replica, perché la replica poi l'ascoltate da mezzanotte alle 2. Ancora ben ritrovati, voi continuate a segnalarcela la vostra musica. Devo accontentare anche Massimo, che ci richiede questa canzone che prima era il nuovo, adesso è diventato il penultimo successo in ordine di apparizione, perché adesso ne è arrivato un altro per quanto riguarda i Coldplay. Ancora ben ritrovati, ben sintonizzato. Poi manca poco, siamo già con un piede dentro il weekend. Sarà un altro weekend, sarà il primo di febbraio, questo mese di febbraio che poi ci regalerà tante feste, a partire da San Valentino, credo la prima sia San Valentino. Poi arriverà il carnevale, perché quest'anno il carnevale è dalla 19, credo, giusto, perché il 18 è sabato, quindi domenica, lunedì e martedì dovrebbe essere 19, 20 e 21. Poi ci mettiamo anche il sabato in mezzo, saranno 4 giorni di festa. Sono paesi dove è più sentito, paesi dove è meno sentito. Allora voi cercateli quei paesi dove è sentito, perché sicuramente là vi andrete a divertire. Coldplay, Paradise. When she was just a girl, she expected the world. She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise. Para, para, paradise. Para, para, paradise. Every time she closed her eyes, the sun was set to rise. It's Paradise, eh? Che bella canzone questa dei Coldplay, che poi sono stati presenti all'appuntamento, anzi allo spettacolo di Fiorello, ve lo ricordate, no? E come mi guardi, e come mi cresci, e come mi arrivi, e come mi hai dato, e come sei sempre, e come hai capito. L'appello era breve, la neve era fresca, la giacca era stretta. The rush of the moment, I stopped all the searching for reckless emotions. You were unexpected. I had to give in, I had to give up. My senses just were weak for you. Inaspettato, tu mai preoccupato. Antonacci, un altro poeta, un altro nostro poeta, un altro che con la musica ci sa fare, questo suo nuovo singolo Inaspettata. 18:48, ancora ben ritrovati, CRM Happy Radio, a regalarvi la musica più bella di qualche periodo fa e anche qualcuna nuova, lo facciamo sempre, vi regaliamo anche i successi attuali, in questo caso speriamo sia di buon auspicio. Dolce Nera, Il Sole di Domenica. Siamo fatti. Nonno Lambada. Ah, ve la ricordate la Lambada? Le ballerine più piccole, la Lambada, le lambadine. Oh, che cavolata. Va bene, e questa era l'ultima cavolata della giornata per quanto mi riguarda. E allora noi qua ci salutiamo, vi lascio con l'ultimo disco, poi l'informazione. Noi ci risentiremo ancora per una puntata in diretta domani, ancora dalle 17 alle 19. A questo punto devo salutare obbligatoriamente i ragazzi che seguono la replica in notturna, quella che va da mezzanotte alle 2. Poi, potreste anche scegliere di ascoltarli col podcast, no? Scaricarli sulla nostra home page. È tutto, a domani, bye! Voglio capire cosa sarebbe oltre le nuvole quando si cade. Voglio calore sulla mia pelle, voglio le fiamme, voglio scintille e poi sparire senza fare. Tempo di capire quanto grande è il mio amore, ma ora spegni la luce e vieni a dormire, che la notte è più breve se restiamo insieme. Voglio anche le stelle.